Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima. Baderek el Asulam, la scala. Lezione numero 6. Nella lingua ebraica gli articoli e le preposizioni sono spesso accoppiati alla parola cui sono collegati. Nell'ultima lezione eravamo finiti alla pagina Bet 2, seconda colonna, primo paragrafo. L'argomento era Zivug Teaka, una fusione-collisione. Sono in collisione perché due forze opposte si scontrano l'una contro l'altra. La forza di Malkut, Din, è respinta e la forza che entra è Rakamim, misericordia. Prima cosa avevamo pensato che qualcuno potesse essere un portatore di queste qualità, ma ora sappiamo che nessuno è misericordioso, ossia la misericordia è una qualità della luce che entra in un cli, in un essere umano, attraverso l'atteggiamento dell'uomo di venire in accordo con il superiore. Prima c'è sempre rifiuto e dopo quella luce entra. Naturalmente nulla entra, ma quando apri te stesso hai la sensazione che la luce ti stia entrando. È quindi solo una questione di attitudine e di lavoro su se stessi. E quello è il segreto del mare fatto da Shlomo, re Salomone, che sta su 12 buoi, perché queste 9 sfirot, la più bassa di lei, di Malkut, la nona sfirot in fondo, caddero in Bria, come menzionato sopra, devono sottoporsi a una correzione. Sono installati nel segreto di 12 buoi, le 9 sfirot in fondo di Nukva, Giglio, sono caduti in Bria, una piccola condizione. Più tardi vedremo perché qualcosa non è perfetto fin dall'inizio. Abbiamo già detto che bianco, che ter, sta sopra e nelle 9 in fondo c'è il rosso, le forze impure che sono come cadute al di sotto. E qui ci sta dicendo qualcosa di più con prove della Torah, perché lo Zohar è connesso con la Torah. La sfira superiore, Keter, rimane in Azilut. In Re secondo, in Re 2, è scritto il re Salomone che costruì il primo tempio costruì un mare che stava su 12 buoi, proprio come ad Amsterdam o in un altro posto dove c'è molta acqua, dove è costruita su fondamenti di pali o pilastri, e quei pilastri sono 12 buoi. E a Salomone fu rivelato quale era il significato, perché aveva costruito il tempio, e il tempio è la Malkut. Il tempio da dove viene il bene, tutti vanno al tempio per ricevere la luce. Il tempio è Nukvah e nella piccola condizione sono solo il mare, una sfira e il bianco, sopra si trova in Azilut. Improvvisamente parla di 12 buoi e non di 9 sfirot, perché? Lo vedremo più tardi. Il punto di Keter, il piccolo punto di Keter che rimane in Azilut, che è rimasto in Azilut come ultima stazione di Azilut, che è il segreto Hu Sod. Hu Sod significa segreto ma anche l'essenza, ma in Zohar è segreto perché devi penetrare per renderti ricettivo. Il mare, l'unica sfira Keter, è un parallelo con il mare costruito da Salomone, che sta sopra di loro dall'alto, e tutti insieme si chiamano 13 foglie. Prima avevamo 10, uno sopra e 9 sotto. Abbiamo anche 13 foglie del giglio. E il soggetto della divisione di questi 10 sfirot da lei, da Malkut, fino al segreto di 13 verrà spiegato più tardi, nel commento Opinioni di Asulam. Quello è un commento in più in cui ha scritto anche Yehuda Ashlag. Più tardi lo vedremo. Arriva un commento per spiegare certi concetti. Abbiamo visto una sfirà e 9 e sopra e 9 sotto. Qui ci sta dicendo del mare corrispondente con quell'unica sfirà. Il mare è sopra e 12 buoi sono sotto, ed essi supportano l'uno. Zohar porta avanti questo per creare un sentimento in noi e anche per fare un collegamento con la Torah. Ho letto spesso questo passaggio e solo Zohar ci dice di cosa tutto tratta. Re Salomone aveva costruito il Tempio in questo modo. Sopra aveva fatto il mare e sotto aveva collocato i pilastri per sostenere il fondo del mare. Perché ha fatto questo non lo sapevamo, solo Zohar ce lo spiega. Il Tempio non è altro che Malkut che eccede le altre forze superiori, ma specialmente da Malkut riceviamo tutto. Malkut è il Tempio e Salomone ci ha mostrato che è la stessa struttura, come alla creazione dei mondi. Uno sopra e 9 sotto. Il perché di questo lo impareremo da Zohar. E vedi qui la luce. Mokin è anche un tipo di luce, perché ci sono diverse parole per le luci, lo vedremo più tardi. Moach significa anche cervello. Da Gadlut, la grande condizione dove tutte le 10 Sfirot si irradiano e sperimentano. Da Nukva, Malkut, tutto il significato è ottenere Nukva, per ora lei ottiene Gadlut, così può ricevere la luce nella sua piena gloria, perché poi lei può irradiarla verso il basso. Che c'è in loro un lucente di Kokma. Impareremo che solo Malkut ha bisogno di Kokma. Ogni cosa è focalizzato sul dare a Malkut Kokma, saggezza. Il re Salomone fu nominato l'uomo più saggio di sempre, perciò dovette costruire il tempio perché il più saggio e la Malkut nel suo tempo e nel suo tempio tutti e 10 Sfirot erano irradiati. Dopo tutti i peccati e la miseria non è possibile dire lo stesso nel nostro tempo. Deve essere in questo modo. Madin, la severità, non si manifesterebbe mai così forte in ogni uomo nella storia come era stata. Naturalmente era l'intenzione che ci sarebbero stati due punti di forza nell'universo, perché entrambi sono necessari. Ma l'essere umano ha commesso alcuni peccati mediante il portare giù la saggezza da sopra a se stesso per attirarla, da voler sapere così avidamente, e quella è la miseria. Conoscere è buono, ma sapere deve essere in modo tale che non spezza le porte dei sensi come sono state create. Se l'uomo vuole conoscere, non risparmia problemi o spese, allora verrà nella miseria. Questa è una lezione importante per noi. Devi avere l'attitudine a non voler sapere. La tua cattiva inclinazione ti stimola ad andare a leggere e leggere sempre di più, perché essa vive seducendoti ad andare a leggere. La tua cattiva inclinazione beneficia da questo. Impareremo come l'uomo può portarsi in accordo con le leggi dell'universo. In loro, in quel Mokin, la luce Nukva riceve uno splendente di Kokhmah. Malkut deve ricevere. Sta dicendo non in piena gloria, solo una scintilla. In AA c'è Kokhmah completo, che è molto alto. L'uomo non può ricevere Kokhmah, saggezza, nella sua piena gloria. Adam aveva cercato di attirare la saggezza a se stesso, al basso per il Creatore, ma l'intenzione era comunque, facendo correzioni, lui avrebbe tirato se stesso sopra, lì avrebbe ricevuto e poi ascendeva da sotto, e non per attirare ogni cosa da sopra a sotto. aveva un po' di saggezza, Kokma, la tirò in basso perché non c'era spazio per prenderne in più. Se riceviamo troppo, i kelim si romperanno. Le porte dei sensi, come sono state stabilite dall'inizio della creazione, dalla sua nascita. E quello che lui ha fatto, molte generazioni dopo di lui, ha fatto lo stesso. In un certo modo hanno approfondito i loro peccati. La tentazione per conoscere di più è enorme, perché sentiamo sempre un tipo di mancanza e pensiamo di sapere sempre di più che possiamo compensare, che sperimenteremo le 10 sfirot in noi stessi, che riceveremo l'adempimento. E tutto questo è il sussurro del serpente. Lui vuole che attiriamo ogni cosa per noi stessi. Dove sempre siamo, prendi questo, prendi quello. E quando non può ricevere piacere che è sulla conoscenza, vai a leggere questo, vai in quel posto. Una scintilla di Kokma, che è un modo kosher di ricevere. Allora è possibile per Malkut di stare in armonia con tutti i punti di forza. Anche noi non possiamo attirare Kokma per noi. Lei, il Mokin, è attirata dal segreto. Mi Sod significa segreto o essenza. Viene dalla parola Mashach, attirare, e da questa parola viene la parola Messia, il quale significa attirare, succhiare. Dai 13 nomi che sono chiamate le 13 qualità di misericordia, non comprendiamo nulla, sii paziente, sperimenteremo. Quando parliamo di una condizione, parliamo del ricevente, di Kli e di quello che può essere ricevuto, luce. I 10 Sfirot ricevono. Vogliamo ricevere così volentieri nel nostro mondo, ma dobbiamo avere un posto per ciò. Nella nostra preghiera possiamo chiedere la luce, ma abbiamo un posto per la luce, quindi dobbiamo fare qualche sforzo. C'è un libro che scrive di persone che hanno vinto molti soldi, ad esempio in una lotteria. E qual è il risultato? Non è andata bene per loro. Non potevano gestire la grande somma di denaro. Un uomo deve incrementare la sua ricchezza lentamente, allora può gestirlo, ma quando qualcuno riceve improvvisamente un'enorme quantità di denaro, è lo stesso con altri che ricevono. Prima abbiamo avuto 13 foglie del giglio e poi il mare di Salomone, che è simile con il Keter di Nukva nell'Azilut, e in Bria ci sono 12 buoi. E ora sta dicendo che ci sono 13 qualità di misericordia. E quello è anche scritto, Knesset Israel, raccolta di Israel, la Malkut di Azilut, che tutta la luce, tutte le forze hanno raccolto in sé, nel Gadlut, è in piena gloria. Egli trae un confronto tra le 13 foglie e Knesset Israel per darci qualche sentimento. A volte lui ci dà una citazione o ci parla del Tempio di Salomone. Riceviamo una nuova dimensione. In questo modo otteniamo una quantità invisibile di impressioni diverse. E queste impressioni lentamente costruiscono i nostri Kelim e in questa enorme luce può entrare. Se non c'è interesse per lo spirituale, allora non c'è Kelim. Alcuni di noi hanno un solo scopo, ottenere risultati, e gli altri stanno cercando di capire ogni cosa con la loro testa. Quando non ci sono i loro Kelim, non possono ricevere. Tu lo vuoi avere mentre non sai cosa è e che cosa puoi fare con esso. C'è una legge che dice, non ottieni più dall'alto, allora puoi ricevere, quello non ti romperà. È un tipo di meccanismo di difesa, a meno che tu sei così testardo, così folle che dici, non importa, e tu lo prendi. È scritto, quando qualcuno viene a purificarsi, sarà aiutato. ed è anche scritto che colui che viene a sporcarsi, essi lo aiuteranno anche con quello. Anche questo viene da sopra. Non devi vedere qualcosa di brutto che viene dall'alto, ma la persona qui sotto sta aprendo tutti i suoi canali per sporcarsi. Lui attira tutta la sporcizia a sé. Lui stesso è la ragione per tutta la sua miseria. È purificare o sporcarsi in un modo o nell'altro. Nello spirituale non c'è via di mezzo. Il tuo atteggiamento deve essere perfetto. Allora ottieni il più possibile. Ci sono in lei 13 perdoni di misericordia. Il perdono significa che c'è il pentimento. Il pentimento è: ti rivolgi alla luce e non al piccolo diavolo, al tuo proprio ego, alla Malkut della Malkut. E poi sperimenterai una luce che in un certo modo porta il vero pentimento. Tutte le attenzioni delle forze impure lasciano la tua osservazione. Nulla si attacca a noi. Noi stessi lasciamo che le forze impure ci succhiano. Non è così male, ma dobbiamo lavorare per ricevere un Kelim puro. Quello ci darà ogni giorno esperienze meravigliose. Noi verremo sempre di più a compimento. E l'essenza, il problema principale di ciò che Rabbi Kitzchia, l'intero paragrafo, è portato nel suo nome, vuole insegnarci. In questo confronto del giglio sotto le spine e Knesset Israel. Rabbi Kitzchia vuole mostrare il confronto tra il giglio sotto le spine e il giglio in una piccola condizione, e Knesset Israel che è in una grande condizione. Quale confronto possiamo fare ora noi? Nukva ha una sfira in Azilut e 9 sono sotto, e quello è il giglio sotto le spine. Knesset Israel, Malkut, regno, ha 10 sfirot. Nella religione si parla anche del regno dei cieli, e quella è la Malkut di cui stiamo ancora parlando. Impareremo come tutte le qualità del regno dei cieli da se stesse agiscono, e attraverso questo possiamo entrare nel regno dei cieli. È detto, è difficile entrare nel regno per sperimentare. Puoi confrontarlo con qualcuno che è molto ricco, ricco del proprio ego, e per lui è molto difficile fuggire dalla pelle dei suoi denti. Non può entrare nel regno perché per entrare hai bisogno di un posto profondo in te stesso, una specie di luogo in cui tutte le forze impure sono al cancello a proteggere la Malkut. La Malkut di Azilut è il regno dei cieli. E qui troviamo Din, severità, e questa è la pietra d'inciampo. Per i malfattori questa è la pietra d'inciampo perché se cercano di attirare la luce a loro stessi, anche la ricchezza, e allora Din, la severità circonda la Malkut. Possiamo leggere nella Torah la storia di Adam che fu cacciato via dal paradiso. Vedremo che il Creatore non ha cacciato via Adam. Cos'è il paradiso? Il paradiso è Azilut, il luogo senza forze impure. Prima dell'ingresso era posto un angelo, una certa forza, Din, con una spada a doppio taglio. Nessuno può entrare. Qui è un enorme segreto, come entrare nel regno dei cieli. È scritto, e anche nella religione, che un uomo ricco non può fuggire dalla pelle dei propri denti. È uguale a un cammello. Un cammello ha 2 grossi grumi sulle spalle, non è liscio e ha molte cose inutili. Un cammello ha come se fosse un conto in banca per 2 settimane sulle sue spalle. Nella Torah ogni cosa riguarda lo spirituale. Perché un cammello e non un elefante? Perché un cammello risparmia, non vive solo oggi. Lui conta sulla sua fornitura che è dietro di lui e non davanti a lui. È detto che è difficile avvicinarsi al Creatore, perché più ti avvicini, più ti senti pesante. Quando ti avvicini a Malkut di Azilut, incontri i punti di forza chiamate Din per proteggere l'entrata al regno dei cieli. Quando qualcuno si avvicina con l'intenzione sbagliata, un malfattore che ha raccolto molto di materiale e ora vuole anche lo spirituale, una persona che sta nella condizione di malignità, nella condizione in cui lentamente ogni cosa verrà ad adempiere, allora da Din che circonda la Malkut, la guardia di Malkut, lui sarà punito o punirà se stesso. Ma per quelli che vogliono portarsi in accordo con le leggi dell'universo, gli stessi punti di forza Din che circondano la Malkut costruiscono cancelli. Cancelli perché prima di entrare nella sala del trono, proprio come nel nostro mondo, ci sono molti cancelli. È lo stesso per chi lavora su sé. Da Din le severe forze stanno costruendo come se fossero cancelli che lo portano al regno dei cieli. Quindi per loro è positivo. Questi punti di forza non ti dicono per favore entra caro bambino o come Lazzaro, come sei dolce. Non in questo modo. Tu devi conquistare e poi ottieni il sentimento come se tu sei portato sulle ali. Alcuni si chiedono perché è così difficile, perché il creatore lo ha reso così duro, perché prima lo dobbiamo guadagnare. Prima di tutto, colui che è un malfattore deve sperimentare dall'interno la punizione. La punizione necessaria deve esserci il sentimento se qualcuno lo sta picchiando per farlo correggere. In un certo senso è un sistema autocorretto installato dal creatore stesso. Quando c'è ancora un difetto nel suo comportamento, lui ha un sentimento irritato, sente dei punti, perché? Questo è necessario per lui per sforzarsi all'armonia, per andare oltre, se no saremmo sempre bambini. Dobbiamo lavorare su noi stessi. Per un professore di materie umanistiche ad una università è lo stesso adempimento, l'esperienza dello spirituale, come per il lavoratore comune. Solo il cervello del professore sarà d'intralcio per lui. Devi andare sopra il tuo cervello. Ed è molto difficile per gli scienziati che hanno costruito i Kelim terreni a lasciar questo per sperimentare lo spirituale. La conoscenza ha portato la morte nel nostro mondo. Quando il tempo è pronto, noi impareremo. Quindi Rabbi Chizkia traccia un confronto tra i gigli sotto le spine, Malkut nella piccola condizione con Knesset Israel. Come puoi confrontare una piccola condizione con una grande condizione? Per insegnarci ogni cosa che è nella Nukva, nella sua grande condizione, è necessaria per trovare in lei il suo posto l'aspetto di preparazione e disponibilità, all'inizio della sua piena crescita, cioè nella condizione di Katnut. Qui ci sta dicendo che la grande condizione non è giusta, non diventi un milionario improvvisamente. Prima devi vendere dei documenti, ad esempio, come preparazione per la grande condizione. La piccola condizione di Nukva è necessaria come preparazione per la sua grande condizione. Oggi era il giorno di Gedalia, un giorno di digiuno, o Gedalia. È buono digiunare di tanto in tanto se non ci si lamenta. Per me è duro digiunare, ma in compenso ho avuto una giornata molto produttiva. Non sei occupato con cose materiali. Cosa ho fatto in questo giorno? Senza il digiuno non sarebbe possibile. È buono digiunare, ma quando perdi la tua devozione non è buono. Ogni cosa deve essere speciale e non solo perché è scritto. E come lo fai, questo è il punto. Quindi la piccola condizione è necessaria come preparazione per la grande condizione. Se vuoi salire la scala, devi guardare per esempio a un top manager, come fa a far funzionare le cose e lentamente impari a fare lo stesso. E quello è ciò che è scritto opposto al bianco e al rosso di Catnut. Il giglio aveva due colori, il bianco in Keter e 9 sotto erano rossi in Catnut. Sta dicendo ora opposto al bianco e al rosso di Catnut, per cui una sfira è in Azilut e 9 erano caduti in Bria. Viene fuori da lei, proviene da lei. Severità e misericordia in Gadlut. Diciamo che ci sono due punti di forza nella creazione. Da dove vengono? Vengono da Malkut, come un giglio. Esce dall'unica sfira bianco, in Azilut viene la misericordia e 9 dal fondo severità, Din. Entrambi sono necessari. Naturalmente non nel modo in cui avevamo sperimentato nella storia. Tutta la storia, tutti i massacri e la miseria, quello non era il senso. Non doveva essere in questo modo, se è stato necessario a causa della conseguenza del nostro comportamento. Adam aveva peccato e ci sono dei cabalisti in questo tempo, molti tabù sono rotti. Dicono che qualsiasi cosa è possibile, anche il peccato di Adam era nel piano della creazione. La conseguenza del suo peccato era tuttavia necessaria. Din, severità, e Rachamim, la misericordia, è naturalmente necessaria. Essi sono portati nel mondo così possiamo venire al nostro sviluppo, alla nostra realizzazione. Il creatore è la qualità assoluta dell'altruismo assoluto che sperimentiamo ovunque ed è tutto quello che noi possiamo dire del creatore. Lui vuole che siamo lo stesso come lui. Al tempo che Adam aveva peccato, quei due punti di forza erano già lì, ma non in questa quantità. C'era una piccola din appena sufficiente per dare un po' di fuoco all'essere umano, per dare qualche gusto all'esistenza. Come la zuppa ha bisogno di sale e pepe. Il sale e il pepe hanno gusto? No, ma quando lo mettiamo nella zuppa, delizioso. Solo din non ha un gusto, ma insieme con la misericordia fa una buona zuppa. Il creatore non vuole che la zuppa diventi amara, che se assaggiamo la zuppa non ci piacerebbe. Questa è la conseguenza del peccato di Adam, di Cain e di altri. Quello è il perché la zuppa è amara, non viene dal creatore. C'è troppa din. In Gadlut quindi è din e Rachamim. Qualsiasi cosa che è stata nella piccola condizione esiste anche nella grande condizione. È lo stesso con gli affari. All'inizio devi investire molto, all'avvio hai l'idea che perdi solo fino al momento che noi lo chiamiamo il punto di pareggio, il punto zero e poi va verso l'alto. Come possiamo sopportare questo? La maggior parte degli uomini considera le perdite iniziali come perdite reali. È assolutamente strutturale, è impossibile passare il punto di pareggio al bene se non si va prima sotto quel punto, è lo stesso nello spirituale. E opposto alle 13 foglie di Catnut esce da lei la Malkut, 13 qualità di misericordia in Gadlut. Malkut nella sua piena crescita è prima in Catnut e più tardi lei viene in Gadlut, per cui lei mantiene i due punti di forza dell'ultima condizione. La esiste qualcosa in più per cui si traccia un confronto con le 13 foglie del giglio. In Catnut lei ha 13 foglie e lì in Gadlut escono 13 qualità di Rachamim. Solo da Rachamim, solo dalla luce che porta il bene e non da Din, il lato da dove provengono i problemi. E lui, Rabbi Chizkia, passerà un sacco di riferimenti per cui lo Zohar o Yehuda Ashlag ci portano in confusione. A cosa si riferiscono? Lui, lei, dà enormi problemi a rivelare questo. Chi è lui? Chi è lei? Per un cabalista il genere non è un fattore costante. Da una parte dice lui e da un'altra parte lui usa lei. Ogni cosa è di qualità. A volte un'entità è femminile, ricettiva, una posizione correttiva e il cabalista la nomina femminile. In un'altra situazione dove lui usa lo stesso, lui lo chiama maschile. Ad esempio, Nukva, femminile, quando lei è corretta, Malkut, poi dà ad un inferiore e lei è nella qualità di donatore, il maschile. Dare è una condizione maschile e ricevere è una condizione femminile. In questo modo si costruisce l'universo. Il lato destro vuole dare e il lato sinistro vuole ricevere. Entrambi non sono perfetti. Naturalmente solo dare è bello, ma poi sei troppo buono per questo mondo. Il mondo non è fatto in questo modo. Il mondo è un processo di apprendimento. Alla fine devi avere entrambi i punti di forza, esperienza in te stesso, Din e Rachamim. Rachamim deve avere il sopravvento non in modo artificiale, solo come forza. Dobbiamo sentire entrambi i punti di forza. Questo significa che diventi un essere umano, non importa di che genere sei. Se sperimenti il lato destro, allora vuoi dare principio maschile. Il lato sinistro nell'essere umano è femminile. Ogni essere umano, anche il più grande macio e il più grande idolo del sesso, devono sperimentare entrambi i lati in se stessi. In questo modo è stato fatto il mondo. Solo allora un essere umano può venire alla realizzazione. In questo modo un uomo e una donna possono avere un contatto su basi uguali. Un essere umano ha pertanto due lati in sé, maschio e femmina, destra e sinistra. Quando sei un uomo e vuoi essere un uomo, spingi e spingi il lato maschile in te. Tu non puoi venire alla realizzazione. Se pensi solo alle cose maschili non sarà nulla, non è nelle leggi dell'universo. È una fabbricazione dell'uomo stesso, anche se è un'idea meravigliosa. Quello che stiamo facendo qui è un processo personale finale e in nessun gruppo avviene, è unico. Quello che ti dico non è da me. Solo se lavori in modo massimo personale a te stesso verrai al compimento e non attraverso gruppi o altri modi artificiali per cui ti senti rilassato. E lui, Rabbi Chizkia, lo porta qui per imparare le scritture che giacciono davanti a noi per spiegare i due ordini di Katnut e Gadlut. Questi poemi che sono di fronte a noi spiegano, con tutte le loro meravigliose immagini, nient'altro che la condizione di Katnut e Gadlut. È un enorme aiuto per noi perché ogni situazione che dobbiamo attraversare in noi stessi, tutte le sfaccettature, piccolo e di quello più grande, fino a che tu non correggi un'altra sfaccettatura in te stesso. Ogni sfaccettatura è collegata a ogni cosa, che sono in uso presso la lucentezza di Nukva. Quando lo Zohar o la Kabbalah parlano di qualcosa che è creato nel mondo Olam Atzilut, usiamo l'emanazione verbale Atzilut, la radiazione. Katnut e Gadlut sono usati all'emanazione di Nukva. Continuare su. Olech significa camminare e quando Olech viene aggiunto ad un verbo, un processo è indicato come un processo continuo. Così anche Elohim da qui, eccetera. Abbiamo visto più volte il nome di Elohim, il nome del creatore. Soprattutto nei primi poemi questo nome è usato spesso. Nel principio Elohim ha creato. Elohim è non il creatore o il misericordioso. Il nome del misericordioso sono le quattro lettere del nome. Abbiamo detto che ci sono due punti di forza, Din e Rakamim. Puoi ritrovarlo nei nomi del creatore. Il nome del creatore è l'entità dei punti di forza del sistema operativo dell'universo da cui proviene tutta la Din, la legge severa, scorre per noi la creazione. L'intera Din che sperimentiamo, la sperimentiamo nel nome Elohim. Entrambi i punti di forza sono funzionali nella creazione. In Azilut il nome Elohim è buono al 100%, divino al 100%. È la forza di severità, ma non nella forma in cui la creazione viene risucchiata da forze impure. Tra l'altro l'intera Torah è piena di «non uccideranno», eccetera. Questo viene dal nome Elohim. Naturalmente esistono altre cose che stanno venendo dal Creatore misericordioso. Possiamo anche lui vederlo. Nukva ha nella sua grande condizione bianco, Rakamim è rosso, Din, come un residuo della sua piccola condizione. Non c'è assolutamente nulla di sbagliato con questo. Anche in Malkut ci sono questi due punti di forza. Abbiamo anche letto che c'è una grande condizione in lei, e questa condizione guarda la Nukva nella piccola condizione dove lei aveva 13 foglie. E ora, nella sua grande condizione, lei ha 13 qualità di misericordia. E questo sembra essere creme della creme, che c'è solo misericordia. Ora forse capiremo perché il nome del Creatore nel principio è chiamato con il nome Din. Abbiamo visto che la Nukva di Azilut è prima creata nella sua piccola condizione. Prima il cielo e la terra sono stati creati. Niente era direttamente perfetto. Vedi cosa stiamo già imparando dalla storia dell'atto della creazione? Possiamo leggere nel Talmud. Devi prepararti di venerdì per avere un buon Shabbat, così puoi mangiare, dormire, imparare, eccetera. Se non ti prepari per lo Shabbat, cosa puoi mangiare di Shabbat? Ogni cosa è assolutamente spirituale. Nel principio ogni cosa era stata creata in perfetta armonia, solo che doveva essere rivelato. Il Creatore ha costruito tutto questo così geniale. Ci deve essere interazione, combinazione e assistenza dell'uomo stesso, altrimenti non ci sarebbe creazione. La struttura di questo sviluppo, anche 6 giorni, ci mostra un modello così che l'essere umano dovrebbe creare le stesse leggi, attenersi con lo stesso sistema e correggersi. Solo l'uomo può contribuire alla Gatlut della Nukva. Ogni cosa è perfetta, anche la Nukva è creata perfetta, solo considerando la creazione che il Creatore l'ha resa in modo tale. Lui la nascose in una tale maniera che solo la sua testa è sopra e il resto di lei è nella palude. È quindi per l'uomo, come l'unica creatura attiva, la creatura suprema, l'animale non ha sviluppo. Solo l'uomo, con il suo desiderio e la sua volontà, può venire in accordo superiore. Può portare il sistema operativo dell'universo alla perfezione. Ogni cosa è perfetta e allo stesso tempo per l'uomo è Katnut. Malkut non può mai venire alle sue 10 Sfirot, alla sua realizzazione, senza interazione dell'essere umano di ognuno. Puoi immaginare? Questo è lo spirituale. Da una parte c'è la perfezione e dall'altra parte devi lavorare per venire alla perfezione. Non puoi dire questo nel nostro mondo. Qui parliamo solo di perfezione, di non perfezione. Per una persona comune nel nostro mondo questo è comprensibile. Una volta una persona mi chiese e stava imparando la Torah comune e anch'io ho studiato la Torah comune e Talmud, ma l'ho sperimentato questo come una condizione di Katnut. E quella persona mi ha chiesto: il Creatore ha dato la Torah al popolo di Israele, Il Creatore è rimasto senza la Torah? Questa è una domanda del nostro mondo, da qualcuno che vuole capire con la sua testa. Gli ho spiegato che il Creatore non dona dalla sua essenza. È lo stesso con una madre che nutre il suo bambino con il seno. Non si ferma, lei non dà forma alla sua essenza, lei non è il suo seno. Quando guardi una mucca e vedi il posto da cui proviene la bistecca, ricevi lussuria o senti fame? Allo stesso modo, un uomo che guarda una donna deve liberarsi dalle sue concupiscenze, altrimenti si sporca da sé. Esiste anche una malkut di Azilut di forze impure e possiamo vederlo nella pornografia, ad esempio. Opposto ai quattro mondi della divinità, delle forze buone, esiste lo stesso mondo delle forze impure. Esso non è come molti sostengono, perché il mondo è stato creato in questo modo e l'essere umano è stato messo nel mezzo. Il sistema impuro dei mondi fu causato da Adam e Hawa, Eva, e dopo loro c'erano altri che copiarono il peccato di Adam. Vedremo che Cain uccise Abel, Hevel, era lo stesso peccato di Adam, era solo un'espressione diversa della stessa fonte. Quattro mondi significano un'enorme forza. Anche in Azilut esiste Azilut di forze impure. Riesci a immaginare quanto è alta la presa dell'uomo? Nella Torah apprendiamo che vennero uomini divini sulla terra, Refaim e Nefilim. Uomini caduti vennero sulla terra e presero donne dalla terra e nacquero dei bambini. Lo impareremo più tardi. È la conseguenza del peccato di Adam. Domanda da un membro del corso. Come possiamo dividere il buono dei punti di forza da altre forze? Risposta. Una forza è intrinseca all'atto, nell'atto di creazione, e l'altra è l'opposto. Più correggi te stesso ed esse scompariranno dalla tua vista. Non è qualcosa che puoi vedere, dipende dalla quantità della tua serenità e da come ti sforzi, quanto desideri. Se un uomo guarda solo sotto, alla terra, lui è riempito fino alle orecchie con altre forze. Pensa che non esista più nulla. Domanda. Quelle forze possono essere molto simili? Risposta. Impareremo questo in Zohar. Ti do solo qualche mano così la tua conoscenza si calmerà un po', ma non vado oltre, poi lo Zohar ce lo spiega ancora. Non ti aiuterebbe, vuoi solo sapere di più. Se te lo dico già, ottieni solo un calcio intellettuale e non mi è permesso parlarti di qualcosa che non porta aiuto, non avrebbe alcun effetto. Se qualcuno vuole sapere solo per conoscere, non posso parlare ulteriormente. Per ogni cosa c'è il momento giusto. Dobbiamo sapere con molta attenzione che ci sono due punti di forza opposti nel mondo e sono un prodotto del peccato di Adam. Quando l'uomo usa queste due forze in modo buono, verrà alla realizzazione, ma non quando è ossessionato da Din. Tre fasi in una preghiera. Disegno 6. 1. Prima fase. Lui crede nel Creatore che può liberarlo. Lui è nella consapevolezza di elevarsi. Punto 1. Cominciare da una osservazione, la risposta non verrà. Sperimenta questo come caduta. Fase 2. Periodo di crescente delusione e disperazione. La risposta non verrà. Punto 2 della fase 2, il punto assoluto della disperazione, Jihush totale, vede che non c'è via d'uscita e non è nella situazione di trasformare la sua condizione per il bene. Fase 3, dietro il punto 2 della fase 2, si arrende completamente al Creatore, se stesso sacrifica, Mesirut Nefesh, e da sopra la risposta verrà.